Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Sulla metropolitana Ellen Bober riuscì a trovar posto a sedere in mezzo a due donne. Era arrivata all'ultima pagina di un capitolo quando un uomo, che le stava davanti in piedi, se ne andò, cedendo il posto ad un altro. Capì, senza alzare gli occhi, che era Nat Pearl. Pensò di continuare a leggere, ma non le riuscì e chiuse il libro. «Salve, Ellen!» Nat si toccò con la mano guantata il cappello nuovo. Era cordiale, ma, come sempre, c'era in lui qualcosa che gli causava una certa reticenza, il suo avvenire. Aveva con sé un grosso volume di legge. Ellen era contenta di avere anche lei un libro che la proteggesse. Non era sufficiente, però. D'improvviso si sentì il cappotto e il cappello logori. Uno scherzo dell'immaginazione, perché su di lei facevano ancora la loro figura. «Don Chisciotte?» Lei annuì. Nat Pearl, pieno di riguardo, poi disse sottovoce: «È molto che non ti vedo. Dove ti sei nascosta?» Ellen sentì sotto gli abiti una vampata di rossore. «Non ti ho mica fatto qualche sgarbo?» Le due donne accanto a lei parevano entrambe affette da una stupida sordità. Una teneva nella grossa mano un rosario. No, era lei che si era fatta uno sgarbo da sé. «Cos'è che non va allora?» La voce di Nat era bassa, lo sguardo dei suoi occhi grigi era risentito. «Niente», mormorò. «Come sarebbe a dire? Tu sei tu? Io sono io.» Lui ci pensò su un momento, poi obiettò: «Non sono molto forte con gli indovinelli.» Ma Ellen riteneva d'aver detto abbastanza. Nat tentò un'altra strada. «Betty ha chiesto di te. Salutamela.» Non l'aveva fatto apposta, ma suonava un po' ridicolo, visto che abitavano nello stesso isolato a due porte di distanza. Nat strinse le mascelle e aprì il libro. Ellen tornò al suo, nascondendo i suoi pensieri dietro le bizzarrie di un pazzo, finché la memoria non ebbe il sopravvento e lei si trovò intrappolata nell'immagine di episodi estivi che avrebbe voluto cancellare, pur con tutto il suo amore per l'estate. Ma come cancellare quello che, volente o nolente, aveva rifatto in autunno? Credeva di essersi separata dalla verginità senza dispiacersene, ma ora era stata colta di sorpresa dai tormenti della coscienza. O era il disappunto di essere stata tenuta in minor considerazione di quanto si fosse aspettata? Nat Pearl, bello, con la sua fossetta sul mento, intelligente, ambizioso, aveva voluto, senza che gli costasse troppa fatica, un amplesso. Lei, per metà innamorata, aveva ceduto e lo rimpiangeva. Non d'aver fatto l'amore, ma che gli ci fosse voluto tanto tempo per capire quanto poco lui volesse. Non voleva lei, Ellen Bober. Perché avrebbe dovuto voler di più? Lui, diplomato a pieni voti, studente della Columbia University, ora al secondo anno di legge? Lei, che aveva finito le superiori con un anno di frequenza ai corsi serali di lettere all'università. Lui, con prospettive di prim'ordine e amici ricchi, che non si era mai dato la pena di presentarle. Lei, povera già nel nome, con poca speranza di un futuro migliore. Più di una volta si era chiesta se non avesse cercato, concedendoglisi, di crearsi un diritto su di lui, ma aveva sempre risposto di no. Certo, aveva voluto il piacere, ma anche qualcosa di più: rispetto per sé e per quel che gli aveva dato. Aveva sperato che il desiderio si sarebbe mutato in qualcosa di più. Voleva semplicemente un futuro nell'amore. Il piacere, in qualche modo, l'aveva avuto e aveva sentito la libertà dell'intimità profonda con un uomo. Benché desiderasse ancora quel piacere, lo voleva senza conseguenze per la coscienza, senza orgoglio, senza la sensazione di aver sprecato qualcosa. Così aveva promesso a se stessa che la prossima volta sarebbe andata diversamente. Prima l'amore reciproco, poi fare l'amore. Più logorio per i nervi, forse, ma più pace nel ricordo. Aveva ragionato così, finché una sera, in settembre, andando a far visita a Betty, la sorella di Nette, si era trovata sola in casa con lui e aveva fatto ancora quello che si era ripromessa di non fare. Dopo aveva lottato per non detestarsi. Da allora, senza dirgli il perché, aveva sfuggito Nette Pearl. Due stazioni prima della loro fermata, Helen chiuse il libro, si alzò in silenzio e scese. Sulla piattaforma, mentre il convoglio si allontanava, intravide Nette in piedi di fronte al suo posto vuoto, tranquillamente intento a leggere. Si incamminò, avvertendo un senso di vuoto tra desiderio e rifiuto, scontenta. Salì i gradini della metropolitana ed entrò nel parco da un ingresso laterale. Percorse di buon passo la parkway, sbirciando con invidia l'intimità illuminata di abitazioni che, per quel che le diceva la sua esperienza e per nessun altro motivo, sapeva non essere per lei. Promise a se stessa di risparmiare fino all'ultimo centesimo per iscriversi in autunno a un corso serale completo alla New York University. Quando arrivò al suo isolato, una fila di case di mattoni gialli sbiaditi a due piani che poggiavano stancamente su vecchi negozi, Saint Pearl, reprimendo uno sbadiglio, stava armeggiando nella vetrina d'angolo del suo negozio di dolciumi per accendervi la lampada. Tirò la cordicella e la smorta luce della lampada piena di sporco di mosche la investì. Helen affrettò il passo. Sam, un ex tassista corpulento, sempre socievole, con sul naso le lenti bifocali e masticando gomma, le prodigò un gran sorriso, ma lei finse di non accorgersene. Buona parte della giornata l'aveva passata rannicchiato dietro il sifone del Selsa a fumare, a masticar gomma e a leggere il giornale delle corse. Con un mozzicone di matita faceva dei rozzi segni sotto i nomi dei cavalli. Trascurava il negozio. Era sua moglie Goldie quella che sgobbava, ma non se ne lamentava granché, perché la fortuna di Sam con i cavalli era straordinaria. Aveva mantenuto decorosamente Nette a scuola fin quando avevano cominciato ad arrivare le borse di studio. All'angolo, dietro la vetrina piena di bottiglie, con la scritta luminosa al neon «Carp, vini e liquori», intravide quel pancione di Julius Carp, con le sopracciglia a cespuglio e la bocca ambiziosa, che soffiava via della polvere immaginaria da una bottiglia prima di infilarla in un sacchetto, mentre il suo figliuolo ed erede Lewis, con gli occhi leggermente bovini, smetteva di tagliarsi le povere unghie fino alla carne e alzava lo sguardo per sorridere amabilmente a un cliente. I Carp, i Pearl, i Bober, una serie di case e negozi vicini l'uno all'altro, ma per il resto isolamento completo. Ecco cos'era questo piccolo nucleo ebraico in mezzo a una comunità di gentili. Prima suo padre, poi Carp, più tardi Pearl, erano in qualche modo finiti in questo quartiere dove di ebrei, almeno nelle vie centrali, non ne abitavano altri. Nessuno di loro se la cavava bene ed erano troppo poveri per trasferirsi altrove, finché a Carpe, che con il suo negozio di scarpe a stento riusciva a campare, non era venuta l'idea geniale, una volta passata l'ondata del proibizionismo, quando si erano cominciate a concedere licenze di vendita di bevande alcoliche, di chiedere un prestito a un ricco zio dalla barba bianca e di far domanda per ottenere una licenza. Con sorpresa di tutti l'aveva ottenuta, benché, quando gli si chiedeva come c'era riuscito, ammiccasse con la palpebra pesante senza rispondere. In poco tempo, tramutatesi le scarpe a buon mercato in costose bottiglie, nonostante la povertà del quartiere, o forse appunto per questo supponeva Helen, egli aveva avuto un successo strepitoso e aveva trasferito la sua voluminosa moglie dal misero appartamento sovrastante il negozio in una grande casa sulla Parkway, dalla quale lei non usciva mai, una casa completa di doppio garage e di mercury. Di pari passo, col mutare della sorte, a detta del padre di Helen, Carp era diventato furbo, pur restando lo stupido che era. La fortuna di Morris invece non era cambiata, a meno che diversi gradi di povertà si potessero chiamare un mutamento, perché lui e la fortuna, se non nemici nati, buoni amici non erano certo. Sgobbava per ore e ore. Era l'onestà fatta persona. Non poteva sfuggire alla propria onestà. Era la sua palla al piede. Sarebbe scoppiato se avesse imbrogliato qualcuno, eppure si fidava degli imbroglioni. Non invidiava nulla a nessuno e diventava sempre più povero. Più sgobbava, la sua fatica era un'immagine del tempo che divora se stesso, meno sembrava possedere. Era Morris Bober e non poteva avere una sorte migliore. Con un nome così, il senso della proprietà ti era negato, come se il non possedere ce l'avessi nel sangue, nel destino. E se per miracolo ti era dato di possedere qualcosa, eri sempre sul punto di perderlo. Alla fine ti ritrovavi a 60 anni a possedere meno di quando ne avevi 30. È un talento anche quello, pensò Helen, non c'è che dire. Si tolse il cappello entrando in negozio. Sono io, gridò, come aveva sempre fatto fin da bambina. Voleva dire che chiunque fosse nel retrobottega restasse seduto e non pensasse improvvisamente che stava per diventare ricco. Morris si svegliò di malumore per aver dormito così a lungo nel pomeriggio. Si vestì, si ravviò i capelli con un pettine rotto e si trascinò al pian terreno. Un uomo pesante, con le spalle cadenti e una capigliatura grigia e incolta che aveva bisogno del parrucchiere. Scese con indosso il grembiule. Benché fosse intirizzito, si versò una tazza di caffè freddo e la sorseggiò, lentamente, poggiando la schiena al calorifero. Ida, seduta al tavolo, leggeva. «Perché mi hai lasciato dormire tanto?» si lamentò. Lei non rispose. «È il giornale di ieri o di oggi?» «Di ieri». Sciacquò la tazza e la depose sul ripiano della cucina a gas. Nel negozio fece scattare il registratore col tasto «Nessuna vendita» e prelevò dal cassetto un nichelino. Sollevò il coperchio del registratore di cassa, accese un fiammifero sotto il banco e, tenendo la fiamma nel cavo della mano, sbirciò la cifra degli incassi. Ida aveva incassato $3. Chi poteva permettersi un giornale? Ciononostante andò a comprarne uno, prevedendo che ne avrebbe ricavato scarso piacere. Cosa accadeva nel mondo che valesse la pena di leggere? Dietro la vetrina di Carpe, passando, vide Lewis intento a servire un cliente mentre altri quattro attendevano il loro turno al banco. Der Oilem idze agoilem. Il mondo è scemo. Morris prelevò il forward dall'edicola, lasciando cadere un nichelino nella scatola da sigari. Saint Pearl, curvo su un foglio verde delle corse, gli fece un cenno di saluto con la mano grassoccia. A nessuno dei due veniva mai in mente di mettersi a discorrere. Che cosa ne capiva lui delle corse di cavalli? Che cosa ne sapeva l'altro della tragicità della vita? La saggezza passava al di sopra della sua testa dura. Morris tornò nel retrobottega e si mise a sedere sul divano in modo che la luce sempre più debole che entrava dal cortile gli cadesse sul foglio. Teneva il giornale molto vicino agli occhi dilatati, ma le sue preoccupazioni non gli permisero di leggere a lungo. Posò il giornale. «E allora, dov'è il tuo compratore?» chiese Aida. Lei volse lo sguardo assente al negozio e non rispose. «Avresti dovuto vendere molto tempo fa», osservò dopo un minuto. «Quando il negozio era buono, chi aveva voglia di vendere? Dopo, quando sono venuti i tempi brutti, chi aveva voglia di comprare? Tutto abbiamo fatto in ritardo». Lui non rispose. Se non si era stati capaci di fare le cose a dovere, parlarne era inutile. Quando Helen entrò, chiese se il compratore era venuto. Se n'era dimenticata, ma se ne ricordò vedendo il vestito di sua madre. Aprì la borsetta e ne tolse un assegno, il suo stipendio, che consegnò al padre. Lui l'infilò senza dir parola nella tasca dei pantaloni sotto il grembiule. «Ancora no», rispose Ida, anche lei imbarazzata. «Forse più tardi». «Nessuno va a comprare un negozio di sera», disse Morris. «Ci si va di giorno per vedere quanti clienti ci sono. Se quel tale verrà, si renderà conto in un batter d'occhio che il negozio è morto e se ne tornerà a casa di corsa». «La tua cena è pronta». Ida accese il fornello a gas sotto la pentola. «Cosa ti fa credere che verrà oggi?» le chiese Helen. «Me lo ha detto ieri Carp. Conosce un profugo che cerca un negozio di alimentari. Lavora nel Bronx. Perciò verrà tardi». Morris scosse il capo. «È uno giovane», Ida continuò. «Avrà 30-32 anni. Carp dice che ha messo via un po' di soldi. Può fare dei cambiamenti, comprare dell'altra merce, rimodernare, fare un po' di pubblicità e avviare dei buoni affari. Carp dovrà vivere un pezzo per vedere tutte queste cose», disse il negoziante. «Mangiamo». Helen si sedette a tavola. Ida disse che avrebbe mangiato più tardi. «E tu, papà?» «Io non ho fame». Raccattò il giornale. Mangiò da sola. Sarebbe stato magnifico vendere tutto e traslocare, ma questa possibilità le balenò come una cosa remota. Quando si era vissuti così a lungo in un posto, tutti gli anni della propria vita meno due, non si poteva pensare di traslocare da un giorno all'altro. Dopo si alzò per aiutare a rigovernare, ma Ida non glielo permise. «Va a riposare», le disse. Helen prese le sue cose e andò di sopra. Detestava quel tetro appartamento di 5 stanze, una squallida cucina dove faceva la prima colazione al mattino per correre più in fretta al lavoro. La sua camera da letto era un altro buco impossibile, piccola, buia nonostante l'esigua apertura nella parete da cui poteva vedere le finestre del soggiorno. Di notte Morris e Ida dovevano passare dalla sua stanza per raggiungere la loro e ripassarci per andare al bagno. Avevano più volte parlato di darle la camera grande, l'unica comoda della casa, ma non c'era altra stanza che potesse contenere il loro letto matrimoniale. Helen udì i passi lenti di Morris sulle scale. Entrò con aria assente nel soggiorno e tentò di mettersi comodo in una rigida poltrona. Stava seduto con lo sguardo triste senza dir nulla, che era il suo modo di cominciare quando voleva dire qualcosa. Quando lei e suo fratello erano bambini, Morris, nelle festività ebraiche, chiudeva il negozio e si avventurava sino alla Seconda Avenue a vedere una rappresentazione del teatro Yiddish o accompagnava la famiglia a far visite. Ma dopo la morte di Efraim, raramente andava oltre l'angolo. Il pensiero della vita di lui le faceva sentire lo squallore della propria. «Pare un uccellino», pensò Morris. «Perché deve essere così sola? Guarda com'è graziosa. Chi ha mai visto occhi così azzurri?» Frugò nella tasca dei pantaloni e ne trasse un biglietto da $5. «Prendi», disse alzandosi e porgendole con imbarazzo il denaro. «Ne avrai bisogno per le scarpe. Mi hai dato $5 poco fa, da basso. E qui ce ne sono altri 5. Mercoledì era il primo del mese, papà. Non ti posso prendere tutta la tua paga. Non sei tu che te la prendi. Sono io che te la do». L'obbligò a rimettersi in tasca i $5. Morris cedette, provandone nuova vergogna. «Che cosa ti ho saputo dare io? Persino gli studi all'università ti ho fatto smettere. È stata una decisione mia di non andarci, ma forse riprenderò. Non è detto. Come puoi andarci? Hai 23 anni. Hai sempre detto che non si è mai troppo vecchi per andare a scuola, no?» «Bambina mia», sospirò, «per me non mi importa, ma per te vorrei quanto c'è di meglio. Ma che cosa ti ho saputo dare? Mi darò da me», disse sorridendo. «C'è speranza». A questo doveva consentire. Le concedeva ancora un futuro. Ma prima di ridiscendere disse teneramente: «Come mai te ne stai tanto in casa in questi ultimi tempi? Hai litigato con Ned?» «No», rispose lei arrossendo, «solo che non vediamo le cose alla stessa maniera». Non ebbe cuore di chiederle di più. Scendendo, incontrò Ida sulle scale e capì che avrebbe parlato con Ellen delle stesse cose.